Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno, buona domenica. Allora Ivana, nuova domenica, nuova puntata di Personal Best, nuovo ospite a cui rubare, diciamo così, qualche consiglio e qualche curiosità per le nostre corse. Oggi infatti è qui con noi Sara Galimberti, benvenuta. Buongiorno, grazie. Sara, noi ci siamo sentiti qualche settimana fa, mi hai detto che insomma ti stavi riprendendo da un infortunio e cose insomma che capitano a chi corre, e poi due domeniche fa hai vinto il trofeo Montestella, una bella gara su 10 km che si corre qui a Milano. A questo punto come stai? Ma ora bene, mentalmente bene, proprio perché questa vittoria mi ha aiutato ad acquisire appunto sicurezza in me stessa. Però come ti dicevo prima, ho fatto alcuni medi in cui non riuscivo ad andare più forte di 4 al chilometro, che mi hanno appunto buttata giù mentalmente. E questa gara è stata una grandissima sorpresa sia per me sia per il mio allenatore, e sono contentissima. Alla fine sono andata 3:32 al chilometro, ho chiuso in 35:24, che è un buon tempo. Andare. Sì, beh, rispetto al mio personale non è un tempo incredibile, ho 33:29, quindi insomma è abbastanza in più, sono due minuti in più, però sono contenta diciamo adesso di questo tempo, di questi piccoli miglioramenti che mi danno fiducia appunto nel lavoro che stiamo facendo. Adesso stai preparando qualcosa, hai in mente qualche gara diciamo nel 2018, cosa stai preparando? Allora adesso mi sto riprendendo perché ho avuto un anno da gennaio del 2017 che ho avuto parecchi infortuni e sfortune varie, tra cui anche la mononucleosi che mi ha tenuta ferma abbastanza. Come sapete bene, per gli sportivi diciamo è a volte una condanna perché dura la fase acuta diciamo un mesetto, però poi gli strascichi si portano avanti per tantissimo tempo, quindi adesso preferisco non fare piani di gare e programmi a lungo termine, ma appunto vivere la giornata, inserire magari delle gare come allenamenti, e poi per il 2018 invece concentrarmi bene dalla primavera, magari fare una stagione su pista che non faccio da un po' di tempo e mi manca, e magari una mezza maratona, forse la Stramilano, non so, non abbiamo ancora deciso, e più avanti magari una maratona in autunno. Che tu hai già fatto l'anno scorso, non hai fatto Reggio Emilia? Esatto. Il tuo esordio maratona che è andato bene, 2:39. È andato sì abbastanza bene, in realtà non ero molto preparata perché ho fatto solo 3 lunghi, ed è pochissimo per preparare una maratona, l'ho preparata praticamente in 2 mesi e quindi l'ho sofferta molto, ho sofferto molto la preparazione, ho sofferto molto la gara, e non avrei voluto che fosse così, diciamo, l'esperienza della mia prima maratona. Poi Reggio Emilia è un percorso molto difficile, è collinare, e se non sei pronto, diciamo non hai chilometri nelle gambe, l'ultima parte che è leggera discesa in realtà ti svantaggia proprio perché ti imballa le gambe tra virgolette e non riesci a sfruttare appunto la fluidità che dovrebbe darti la discesa. Ma da quanto corri? Cioè com'è iniziata la tua diciamo passione per la corsa? Io corro dalle scuole medie, ho iniziato perché mia madre ha sempre corso, ha sempre cercato di avvicinarmi alla corsa, ma io non ho mai voluto, ho sempre fatto sport come danza, ginnastica ritmica, pattinaggio, nuoto da piccolo. Tutto praticamente. Tutto, sì, beh, quello che fanno di solito i bambini. Sì. E ha sempre cercato di avvicinarmi alla corsa, non ho mai voluto perché vedevo comunque lei che faceva fatica, che stava in giro tanto tempo, lei allora preparava le maratone. E poi un giorno ho fatto la gara dei campionati studenteschi nella mia scuola, l'ho vinta. Anzi no, non è vero, sono arrivata seconda e la prima ragazza faceva atletica e allora ho detto no, ok, adesso voglio farla anch'io e l'anno prossimo la batto. È cresciuta la competizione. Esatto. E all'inizio non mi piaceva per niente, piangevo tutte le volte. Ho iniziato oltretutto con i cross, che ancora adesso odio. No, mi viene da piangere ancora ora. E quindi ho iniziato con i cross, piangevo ogni volta che mi mettevano sulla linea di partenza. Però poi piano piano ho iniziato anche a migliorare, ho iniziato a diventare una delle più forti diciamo del campo del mio paese e ho iniziato a prendere fiducia in me stessa, in quello che potevo fare, mi hanno fatto capire che avrei potuto fare bene e quindi ho iniziato a credere di più in me stessa e alla fine i risultati sono arrivati. Da professionista però lo corro da 3 anni. La tua specialità poi sono 5-10.000, no? Ho iniziato con i 5.000 dopo che ho fatto un raduno in America con la federazione e abbiamo gareggiato questo meeting di Palo Alto. Ho fatto i 5.000, ho fatto 15:55 e sono andata molto forte, non me l'aspettavo. E l'anno successivo, sempre allo stesso meeting, ho fatto 33:29 cadendo, anche lì. Purtroppo è un po' la storia della mia vita. E quindi sì, 5.000-10.000, poi mi sono data anche alle mezze, e però la mia distanza preferita rimangono 10.000 e mezze. Ok, quindi un futuro, diciamo, da distanze medie, anche se tutti ti aspettano, parlavamo prima della maratona, molti ti aspettano dopo la tua prestazione di Reggio Emilia, magari su una distanza della maratona. Sì, tutti quelli che mi hanno allenato e il mio allenatore adesso attuale mi dicono che sono portata per le lunghe distanze. No, non so se perché sono scarsa in quelle brevi, quindi mi dicono guarda, tutto quello che puoi fare è la maratona, non lo so, non credo, cioè credo che veramente vedano in me delle qualità per le lunghe distanze. Quindi sì, bisogna capire se veramente anche mentalmente io sia portata per queste distanze. Io so che quando corro tanto, nel momento in cui ovviamente sono in forma, ho ripreso bene a correre, mi sento veramente in pace con me stessa, perché riesco a trovare un equilibrio, un tempo al chilometro che mi permette di essere in equilibrio col mio corpo e quindi corro bene, in pace. Forse le gare più brevi sono un po' più tirate, quindi. Esatto, sì, però insomma vedremo cosa mi riserverà il futuro. Sai che comunque la mente l'alleni facendo tanti allenamenti anche lunghi, quindi secondo me poi anche la predisposizione ti viene anche con tanto allenamento, vedrai che poi ti butterai anche nelle ultramaratone. Tra dieci anni faremo una nuova intervista. Quelle le fa solo Ivana, queste imprese incredibili. Ma il tuo allenamento tipo della settimana com'è? Tu fai allora, il doppio? Allora mi alleno tutti i giorni. Allora ora che sono diciamo in fase media, perché ho ripreso, diciamo non sto caricando al 100%, mi alleno tutti i giorni, doppio di corsa due volte a settimana, faccio un allenamento più lungo nel weekend, di solito la domenica, e gli altri doppi che faccio, doppio quasi tutti i giorni, a parte la domenica, il sabato qualche volta ne faccio solo uno, li faccio in bici. Quindi ho una bici a casa, da poco ho i rulli con la bici appunto da corsa, in estate invece esco in bici, faccio anche delle uscite molto lunghe a volte. Molto lunghe, quindi sopra 100 km? Ma i chilometri non li ho mai guardati, non lo so, io vado a ore, nella corsa non vado mai a chilometri, vado a minuti o a come ore. Come bisognerebbe fare? Quello ce l'ha insegnato il nostro coach Fabio Vedana. E tu usi la bici anche perché ormai molti la utilizzano, ne abbiamo parlato più volte, anche per evitare delle infortuni, nel senso per riuscire a caricare meno i chilometri sull'articolazione, sul fisico. Sì. Esatto, io ho iniziato ad utilizzare la bici quando ho avuto i primi infortuni, purtroppo nella mia carriera ho avuto abbastanza infortuni, sono stata ferma molto spesso e ho dovuto sempre ricominciare da capo e mi sono resa conto che nel periodo in cui stavo ferma, fare bici, ho sempre avuto infortuni ovviamente ai piedi, tendini, microfratture sotto il piede, al sesamoide, quindi infortuni che mi permettevano anche di fare la bicicletta. E comunque una volta che riprendevo mi sentivo molto meglio, sia organicamente sia muscolarmente. La bici è un grande mezzo per fare anche tanta forza senza avere l'impatto per forza della corsa, magari della corsa in salita che insomma impatta molto sul fisico. E tu come recuperi dagli infortuni, anche psicologicamente? Ogni volta bisogna ripartire. Sì, guarda, proprio l'altro giorno mi ha scritto una ragazza su Facebook e mi ha detto: ma ascolta Sara, voglio darmi un consiglio perché continuo ad avere infortuni e ogni volta riprendere sempre più dura, voglio fermarmi, voglio mollare. E io le ho detto che purtroppo la capisco molto bene. In realtà la cosa importante, sembra scontato, sembra banale, è non mollare, perché Ogni infortunio io lo vedo, inizialmente lo vedo come una condanna, come un'ingiustizia, dico non è giusto perché ancora, e poi dopo lo vedo come invece una prova per dimostrare a me stessa che in realtà ho gli attributi per reagire e per voler tornare più forte di prima ogni volta, quindi tiro fuori l'agonismo anche in queste situazioni difficili, quindi è importante non mollare quando le cose vanno male, perché quando le cose vanno bene secondo me tutti siamo bravi a diventare forti mentalmente. Quindi sei diventata molto resiliente, no? Quindi sì, in questo sì. Hai trasformi l'ostacolo in un'opportunità per magari appunto fare bici, fare altro, per rinascere. Mollare non l'ho mai fatto nella mia vita, quindi è difficile. Ho i miei momenti di sconforto, soprattutto all'inizio viene anche a me voglia di mollare tutto, di lasciare. A volte ho detto: ma sarà il destino che mi dice smetti di correre con tutte queste cose che ti capitano, perché succede sempre sul più bello, poi no, sei lì che ti prepari. Esatto, tutto succede perfettamente sempre sul più bello, e poi in realtà questa è la mia vita, questo è quello che voglio fare. Voglio essere io a decidere di smettere di correre quando lo deciderò io, perché non mi piace più, e non un infortunio, e poi magari arrivare a 50 anni, quando non potrò più permettermi di fare atletica ad alti livelli, a rimpiangere di non averla fatta quando potevo. Quanto meno averci provato, insomma. Così, esatto. No? Prima facevi riferimento ai social, tu sei molto attiva sui social e hai un rapporto con i follower molto bello, almeno quello che si vince, nel senso le persone ti scrivono e tu rispondi dando dei consigli. Sì, esatto. A me piace molto, nel senso che non voglio essere presuntuosa e dire che io possa dare consigli a tutti, però in base alla mia esperienza, io non sono un'allenatrice ancora, e in base però alla mia esperienza personale, le persone che mi chiedono consigli, io li do appunto in base a quello che io ho vissuto e io penso che sia giusto, ovviamente non è per forza giusto, però è quello che io credo e ho aiutato parecchie persone anche a migliorare. Io pubblico anche i miei allenamenti, non credo che siano un segreto. No, quindi non ho nessun tipo di problema a pubblicarli, a far vedere quello che faccio. E mi piace molto e sento tantissimo calore da parte della gente, sostegno, sia nei momenti belli, sento gioia vera, e anche nei momenti brutti comunque mi sento il sostegno delle persone e mi fa molto piacere. Sara, un'ultima domanda su, visto il periodo invernale che si avvicina, il problema è quello di dare un consiglio al nostro ascoltatore su come vestirsi. Tu sei stata o sei modella, per cui chi meglio di te può darci qualche consiglio su cosa indossare per uscire a correre in inverno? Allora, partiamo dal fatto che non sono più una modella, e quasi tutte le gare lo ricordano. Io ho partecipato al concorso di Miss Italia, lo ricordano sempre e un po' mi dà fastidio. Ah, ecco. Perché comunque magari quando presentano le atlete, sai, presentano tutte con i risultati sportivi, invece di me la prima cosa che dicono è quella, come se io non avessi fatto nulla. E mi dà un po' fastidio, proprio perché non mi ha per niente aiutato nella corsa essere, diciamo, modella, carina. Assolutamente no, cioè la corsa è uno sport meritocratico, è solo ed esclusivamente di fatica, quindi non ha senso ricordarlo ogni volta. Comunque io d'inverno io sono molto freddolosa, mi copro veramente tantissimo, sempre con materiale tecnico, perché è importantissimo. Di solito mi metto sempre, già in questo periodo sto uscendo con calzamaglia, calzettoni, quasi guanti, quindi mi copro veramente tanto, sempre l'antivento, l'antivento senza manico, anche sì, a maniche lunghe, comunque copri bocca assolutamente di inverno. Fondamentale per non prendere mal di gola, raffreddori vari, e cappellino, che io invece metto poco, ma dovrei. Sì, si veste a strati, come si dice. Poi bisognerebbe uscire di casa avendo un po' freddo, forse si dice. Invece, per dire adesso, io corro ancora in pantaloncini e maglietta. Mamma mia. Beh, tu fai un sacco di chilometri e hai tutto il tempo che vuoi per scaldarti. Sì, però forse, vabbè, io sono anch'io abbastanza freddolosa, però appunto mi piace uscire e avere un pochettino freddo. Sì, perché l'errore che si fa probabilmente è quello di vestirsi troppo. Alcuni secondo me si vestono troppo. Beh, io credo che si fa sempre in tempo a togliersi le cose, a metterle, a nasconderle da qualche parte, di passare a prenderle alla fine della corsa. Quindi preferisco uscire e non avere, diciamo, soprattutto di mattina presto. Già è un trauma uscire di mattina molto presto. Quindi preferisco essere comunque caldo. Essere protetta. Sì, beh, è molto soggettivo comunque. Certo. Grazie a Sara Galimberti. Grazie a voi. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.